autorizzato. La festa non sono autorizzato. Bastille, bastille, bastille, bambini. Cade, cade, darmi un tale. Ogni attore, mi avvenzione, anormale. La città proprio rispondo, a telefono rispondo. Se non sarà la porta, mi nascondo. La città proprio rispondo, a telefono.